Nasce il nuovo RAV4. Ha qualcosa di mai visto prima. È superiore nella tecnologia, con il nuovo rivoluzionario cambio automatico. Solo lui era in grado di superare se stesso. È superiore anche nelle prestazioni, ma i consumi e le emissioni sono ancora più bassi. Nuovo RAV4, il SUV per definizione. In prima visione sabato 6 e domenica 7. Today, tomorrow, Toyota. Il segnale orario vi è offerto da... Se cerchi certezze, non sbagli con il software Buffetti. Software Buffetti, beato chi ce l'ha. Le 9 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Presidente degli Stati Uniti Barack Obama annuncia oggi la bancarotta della General Motors. Le foto delle feste in villa in Sardegna, Berlusconi dice non toccate il mio privato, è stato lui a raccontarlo da Vespa, replica D'Alema. In arrivo il maltempo su buona parte dell'Italia. Buongiorno da Marta Cagnola e dalla redazione. Il presidente americano Barack Obama annuncerà oggi la bancarotta di General Motors, per 77 anni la prima casa automobilistica al mondo. Come anticipato dalla Casa Bianca, GM farà ricorso al Chapter 11, sezione 363, e la bancarotta durerà 60-90 giorni. Il Tesoro americano concederà un ulteriore finanziamento. Sentiamo. Siamo arrivati nel mezzo di questa crisi alla fine di un'epoca, questa volta nel senso vero della parola. La General Motors, dopo aver dominato l'industria automobilistica mondiale ed essere stato un punto di riferimento manifatturiero nella storia economica, chiuderà i battenti, entrerà in stato fallimentare e produrrà da qui ai prossimi 60-90 giorni una nuova società, una nuova GM ridimensionata, più piccola, il cui controllo azionario sarà per la maggioranza nelle mani del governo americano. Circa il 60% del pacchetto azionario della nuova GM sarà del Tesoro e il 12% del governo canadese. Complessivamente stiamo parlando di circa il 72%, un altro 12-15% andrà invece agli obbligazionisti. L'operazione è molto complessa, sul piano industriale prevede la chiusura di circa 14 impianti produttivi e il ridimensionamento della capacità produttiva della vecchia GM. Passerà dai 16 milioni di vetture necessarie per raggiungere il punto di break-even, dunque il punto di pareggio, a 10 milioni di vetture. Questa mattina ci sarà formalmente la registrazione presso la Corte fallimentare di New York. Poco più in là avremo l'annuncio del presidente Obama. Mario Platero, GR24, il sole 24 ore, New York. Il giudice federale Arthur Gonzalez ha dato il via libera decisivo per la vendita degli asset buoni della Chrysler alla nuova società condotta dalla Fiat, che gestirà la casa automobilistica americana, lo rivela il New York Times nella sua edizione online. Siamo arrivati davvero a toccare il fondo con queste intromissioni nel privato. Nessuno può accettare che da fuori si arrivi a fotografarti dentro casa. Quelle foto le ho viste, sono inutili e secondo la valutazione di un giornale della Mondadori non valevano nemmeno 10.000 euro. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi parlando in conferenza stampa a Bari, rispondendo a una domanda sulle foto a Villa Certosa e sulla presunta relazione di Veronica Lario con il capo della sicurezza, così come pubblicato su Libero. Berlusconi ha detto: sono spiaciuto che si debba leggere sulle prime pagine dei giornali situazioni che attengono alla vita di una famiglia. Poi, sollecitato da un giornalista, parla anche delle famose foto finite sotto sequestro. Nessuno può accettare che da fuori casa tua un fotografo arrivi a fotografarti dentro casa. Le foto le ho potuto vedere anch'io, erano foto così inutili che un giornale della Mondadori non ha voluto, quando hanno chiesto cosa si poteva pagare, ha detto non si possono pagare 10.000 euro. Ricordiamo che la riservatezza e la privacy è una libertà fondamentale che fa parte del più generale e importante diritto di libertà. Intanto in questa vicenda tornano a far sentire la loro voce anche i figli del premier. È Luigi, il più giovane, a rivolgere un appello a non essere strumentalizzato nella vicenda che riguarda i suoi genitori. Anche il presidente del Consiglio definisce, lo abbiamo sentito, inaccettabile l'intrusione dentro casa. Questa la replica di Massimo D'Alema, ma se è stato lui ad andare a porta a parlare dei suoi problemi personali, non certo l'opposizione. E duello a distanza con Franceschini, intanto su crisi economica e politiche ambientali. Sono mesi che noi portiamo in aula proposte per i disoccupati, per le piccole imprese, per le forme di povertà assoluta, per i giovani laureati, per l'ambiente, per il clima. Purtroppo le bocciano, al di là della qualità o meno, solo per il fatto che le abbiamo proposte noi. Maltempo, la pioggia si abbatte sul ponte del 2 giugno, precipitazioni in arrivo sulle regioni centrali. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni meteo per le prossime ore. Interesserà il settore tirrenico. Chiudiamo con il calcio. Sarà il brasiliano Leonardo il nuovo allenatore del Milan al posto di Carlo Ancelotti. Ad annunciarlo ieri la società rossonera e il tecnico emiliano dopo la gara vinta dal Milan a Firenze per 2-0 e che ha garantito ai rossoneri l'accesso diretto in Champions League. È tutto per questa edizione di GR24. Ci risentiamo alle 10. Ciao, sono Alessandro Del Piero. In nazionale ho imparato a bere Uliveto, acqua della salute. Porto sempre con me mezzo litro, quando mi alleno, in auto, a passeggio. Perché Uliveto mi aiuta a digerire e a vivere in forma. Caro, torta ritirata. E vai, corriamo a casa. Allarme furto zona ingresso. Per guardare il video premi 1. Caro, problemi a casa? Ti stanno organizzando una festa sorpresa? Combivox, l'ideatore del primo antifurto GSM, crea e progetta da oltre 25 anni sistemi di allarme professionali. Grazie a Combivox, controlli a distanza casa e ufficio dal telefonino. Vai su combivox.it. Tanti auguri a te e la sicurezza a noi. Combivox, sicurezza, non sorprese. Gonfie, infiammate, sanguinanti. Le tue gengive irritate. Non trascurarle. Prova Meridol, il dentifricio specifico che aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere gengive sane. Per un beneficio ancora maggiore, usalo insieme a Meridol Collutorio. 67% di efficacia in più. Chiedi al tuo dentista o al farmacista o vai su www.gengivesane.it. Meridol, balsamo per le gengive. È l'ora della conto ICI. Per questo in edicola c'è la guida del Sole 24 Ore, con tutte le regole per il calcolo, aliquote, detrazioni, delibere e conti correnti. E in più tutti gli immobili e terreni esenti dall'imposta. Guida a conto ICI, con il Sole 24 Ore a 6,50 euro in più. Gli speciali di Radio 24. Buongiorno da Gianfranco Fabi e dal Festival di Trento. Siamo qui a due passi da Piazza Duomo a Trento. Oggi è l'ultima giornata del Festival dell'Economia, un festival che ha interessato moltissimo soprattutto i giovani. Quattro giornate di incontri, di scambi, di vedute, anche di processi, di confronti sul fronte aperto dell'economia in questo momento particolarmente difficile, particolarmente complesso, in cui la crisi economica sta dando i suoi effetti peggiori, ma anche con la speranza di poter costruire qualcosa di diverso, un mondo che non sarà uguale al precedente, ma che comunque potrà offrire opportunità di crescita, forse diversa, ma comunque di crescita. Ecco, in questa prospettiva vogliamo approfondire i temi del festival, vogliamo vedere quali sono stati i temi portati alla ribalta e come è stata anche la reazione del pubblico, come è stata la reazione di quanti hanno seguito questo festival. Per quanti volessero chiamare, ricordo 800 24 00 24, potranno farlo anche per sentire le risposte dei nostri ospiti che insieme a Simone Spezia dialogheranno con noi. Li presento subito, è Tito Boeri. Buongiorno Boeri. Buongiorno. Boeri è direttore scientifico del festival, l'artefice, l'organizzatore e quindi la persona che più da vicino ha seguito e segue questo festival. E Luigi Zingales. Buongiorno Zingales. Buongiorno. Luigi Zingales è professore all'Università di Chicago, ha tenuto ieri una conferenza sulle regole e sul futuro della finanza. Oggi nell'ambito del processo alla finanza svolgerà il ruolo di avvocato difensore, vedremo come mai, e quindi vedremo tutti gli aspetti di questa crisi finanziaria, economica e le prospettive. Ma prima di entrare nel merito del Festival di Trento e dell'economia, lasciamo la parola alla Borsa e a Deborah Rosciani. Buongiorno, la settimana parte a razzo, decisamente per i listini del vecchio continente che stanno registrando già in avvio un progresso di oltre 2 punti percentuali a Parigi, Francoforte, Londra, bene anche Piazza Affari. La novità di oggi, ricordiamola, che a Milano partono i nuovi indici, è il frutto del completamento del processo di integrazione con il London Stock Exchange, e dunque al posto dell'S&P MIB 40 abbiamo il FTSE MIB che ha un rialzo del 2,26%. Parte a razzo la seduta anche dell'euro sul dollaro a 1,41,90, un mercato che dunque trascura anche i generali fattori di preoccupazione come il petrolio che si è arrampicato a $67 al barile. Questa mattina è la notizia della formalizzazione della bancarotta di General Motors. A Milano i migliori titoli Alleanza più 3,81, Generali più 3,58, recupera il forte calo di venerdì scorso Enel più 3,26%, oggi parte l'aumento di capitale, Fondiaria più 3, CIR più 3%, segno meno invece, anzi su nessun titolo, il titolo più debole è Fiat più 0,6%, anzi in pregiro più 0,56%, Snam Rete Gas più 0,8%. Direttore, è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Allora entriamo nel merito. I mercati, una giornata positiva, il sole è tornato a Trento, nel resto d'Italia abbiamo sentito c'è qualche nuvola, sul fronte dell'economia invece qualche nuvola rimane. Ma io inizierei dal festival, da questo festival alla sua quarta edizione, oggi si conclude, ma dopo i tre quarti del cammino è già possibile fare un bilancio. Allora, Tito Boeri, quale bilancio possiamo fare rapidamente per questo festival? Mentre ricordo gli ascoltatori l'800240024 se vogliono telefonare. Tito Boeri. Ma io penso che sia un bilancio molto positivo, sia come presenze, perché abbiamo avuto una partecipazione elevatissima, abbiamo tra l'altro avuto molti eventi anche in contemporanea in questa edizione, e soprattutto io credo che il dato più positivo è la qualità della partecipazione, cioè il fatto che in tutte le presentazioni c'era un pubblico molto attento che alla fine ha posto delle domande molto pertinenti. La novità di questi giovani, c'erano moltissimi giovani venuti da fuori trentini, e devo dire che la novità di quest'anno, cioè quella dei processi, mi sembra che sia una novità importante, che è riuscita, perché l'attenzione è stata molto forte. E penso che sia un modo anche di discutere che sia molto utile, perché in Italia c'è poca abitudine a fare dei contraddittori seri, o si litiga oppure ci sono appunto queste forme di litigio aperto, ma una discussione pacata in cui ci sono gli argomenti e pro e contro, quindi organizzata come nei processi, e penso che sia un modo utile per si è fatta diverso. Sempre molta fatica quasi a chiudere gli interventi, a chiudere questi convegni, queste conferenze, c'erano sempre molte domande da parte del pubblico, molta voglia di partecipare, molta voglia di conoscere. E tra l'altro, tornando ai giovani, i giovani hanno anche formato le giurie popolari a questi tre processi che hanno messo sotto accusa da una parte le istituzioni, dall'altra la finanza, dall'altra gli economisti. Per ora sappiamo l'esito del primo processo, gli economisti non sono usciti molto bene. Tito Boeri. Sì. Ma comunque voglio rassicurare gli ascoltatori e tutti voi, non dirò che i giudici o che i giurati fossero dei comunisti. Effettivamente hanno valutato i casi con estrema attenzione, devo dire, e sono usciti con una sentenza ponderata e studiata a fondo. Tra l'altro hanno lasciato in sospeso un giudizio, quello su se gli economisti hanno giocato lo scaricabarile con i regolatori o con appunto le autorità e i banchieri. Oggi ci diranno, probabilmente anche su questo giudizio daranno la loro sentenza, e poi oggi è aspettata soprattutto la sentenza sulle autorità di regolamentazione sui politici. Ecco, Luigi Zingales farà l'avvocato della finanza, l'avvocato del diavolo. Sì, proprio qui a Trento, dove la figura dell'avvocato del diavolo è stata creata dal Concilio di Trento, anche se l'avvocato del diavolo nel Concilio è chi porta le pecche nel processo di beatificazione, io invece difendo letteralmente quello che sembra essere il diavolo, la finanza, soprattutto nell'accusa di Dionado le banche americane. Non posso anticipare la mia difesa, ma sarà interessante. Ecco, Luigi Zingales, se lo ricordo, professore all'Università di Chicago, editorialista del Sole 24 Ore. Ecco, una difesa interessante, però non rischia anche nei processi, il processo che abbiamo visto gli economisti, il processo alle istituzioni, di fare tutti colpevoli e poi in fondo tutti assolti? Sicuramente esiste questo rischio. A me sembra però che, come diceva Tito, è un elemento molto valido il fatto che, numero uno, questi processi avvengano, quindi c'è un dibattito con i pro e i contro. Numero due, che gli economisti giudichino anche se stessi. Cioè, siamo troppo abituati, soprattutto in Italia, ad avere delle caste intoccabili che si autoassolvono. Invece in questo caso gli economisti hanno lavato i panni sporchi in pubblico. Però sono perfettamente d'accordo con lei, ci sono preti buoni e preti cattivi, ci sono economisti buoni e economisti cattivi, non si può fare di ogni erba un fascio. Ecco, allora tornando a Boeri, guardando un po' in avanti, da questo festival verso, diciamo, l'atteggiamento che devono avere i cittadini, i consumatori, gli utenti, che cosa può emergere, anticipando un po' un bilancio conclusivo, poi magari entreremo più nel termine della valutazione della crisi, però che cosa offre questo festival? Un po' di speranza, un po' di fiducia, ma anche molta convinzione che i problemi sono veramente grandi. Ieri si è parlato per esempio di capitalismo irresponsabile con Federico Rampini, anche questo è un appuntamento molto seguito, un capitalismo che stenta a riformarsi. Ma io credo che il messaggio, che i messaggi che sono emersi da questo festival sono che la crisi effettivamente è una crisi profonda, una crisi che è destinata per molti aspetti a durare, come le crisi che emergono dai mercati finanziari sono delle crisi più lunghe delle altre crisi, e quindi questo mi sembra che i vari interventi l'abbiano sottolineato in modo molto, molto, molto preciso. Potranno esserci, perché alcuni fenomeni avvengono con un certo ritardo, per esempio gli effetti della crisi sul mercato del lavoro sono destinati a manifestarsi nei prossimi mesi, e ci sono una serie di correttivi e di misure che andrebbero adottate per cercare, da una parte, di ridurre i costi sociali della crisi, dall'altro per prepararsi poi a uscire più rapidamente possibile. Questa mattina, tra l'altro, uno degli appuntamenti sarà appunto come recuperare il terreno perduto, questa lezione di Fabrizio Zilibotti, che proprio parla specificamente del caso italiano e mette in luce come con questa recessione noi torneremo indietro di circa 10 anni, cioè il livello di reddito pro capite degli italiani tornerà al 98 più o meno, e quindi se non vogliamo impiegarci altri 10 anni per ritornare alla situazione pre-crisi, bisogna chiaramente che l'economia italiana ricominci a correre. Ecco, in questo forse va anche la pena di ricordare che tra pochi minuti alle 10 comincerà anche un convegno su imprese italiane, un modello locale, cioè globale e locale, per vincere la crisi, quindi un po' di fiducia nelle imprese italiane, nella possibilità del modello italiano di trovare una soluzione, un modello italiano che è rimasto ancorato all'industria, al manifatturiero, e non ha avuto, fino a un certo punto almeno, le ambizioni di seguire le chimere della finanza. Quindi l'Italia, sotto questo profilo, lo vedremo soprattutto tra poco, potrà avere qualche carta da giocare in più rispetto agli altri paesi. Sicuramente sì, però bisogna al contempo fare una serie di riforme che sono fondamentali, sono poi le riforme su cui ha insistito anche Draghi nelle sue considerazioni finali. Ecco, mentre ricordo l'800 24 00 24, anche se so benissimo che essendo una giornata di ponte forse qui ci ascolta, magari ci ascolta sulla spiaggia, non ha tanto tempo di telefonare, comunque se volete telefonare siamo qui, e lascio un attimo la parola a Simone Spezia, il nostro collega che ha seguito il festival, ha seguito gli eventi e ha raccolto anche qualche testimonianza da chi ha parlato nei vari appuntamenti. Simone Spezia. Sì, direttore, allora io inizierei da questo. Abbiamo già parlato del processo che si è celebrato ieri, ed ancora stamattina ci sarà la sentenza a regolatori e politici. Tra l'altro oggi i giornali ci parlano di questo incontro tra Prossimo Venturo, tra il nostro Presidente del Consiglio e il Presidente americano Barack Obama, per parlare del Global Legal Standard. Ebbene, abbiamo interrogato un collega americano, del professor Zingales, ossia Alberto Alesina, che insegna all'Università di Harvard, insegna economia all'Università di Harvard, proprio sul ruolo dei politici. È un breve file, ascoltiamolo. I politici hanno in parte contribuito a crearla questa crisi, e che con alcune risposte iniziali dettate dal panico più che dalla ragione hanno contribuito ad aggravarla, e che la politica e certi interventi sono serviti, ma è importante che poi la politica, lo Stato, si ritiri alla fine della crisi a fare le sue cose importanti che deve fare, ma non a fare il dirigista, come c'è il rischio che lo Stato sia intervenuto e rimanga troppo nell'economia. Un commento di Zingales a questa analisi, i politici, la responsabilità dei politici. Beh, non posso che essere d'accordo con Alberto. Diciamo, la politica in senso largo del termine ha una grossa responsabilità a due livelli. Ha una responsabilità nel creare un mercato troppo rischioso. Ricordiamo due cose importanti. Uno, una pressione politica molto forte per favorire la casa negli Stati Uniti, che ha indotto delle agenzie semigovernative come Fannie and Freddie a cominciare alcuni dei prestiti più rischiosi, quindi, e a comprare molti dei subprime, quindi hanno creato un mercato per i subprime. In questo senso la politica ha avuto una responsabilità, in senso più ampio, se pensiamo a politica, anche la politica monetaria, che è fatta da un'autorità semi-indipendente ma comunque dominata sempre da organismi politici, che ha favorito negli anni un salvataggio continuo nei momenti di rischio, spingendo il mercato ad essere più rischioso. E poi una politica che, come ricordava giustamente Alberto, ha creato il panico con la propria inconsistenza, consistenza è un anglicismo, con la non coerenza nei comportamenti, che ha indotto gli operatori a non sapere più da che parte stavano. Ecco, ma nel momento in cui accusiamo i politici di queste colpe, affidiamo ai politici anche la possibilità di superare la crisi. Ma io l'affido meno ai politici di molti altri. Secondo me quello che i politici potrebbero fare di meglio è dichiarare che cosa faranno in futuro e fare il meno possibile, non il più possibile. Secondo me l'intervento dello Stato è molto pericoloso a tanti livelli, a cominciare dalle intromissioni che abbiamo visto di Obama nella politica industriale in maniera molto pesante. Magari andiamo all'Italia, sentirei Andrea dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, dica. Buongiorno. Niente, io chiamo perché sono un piccolo artigiano di Vicenza, sono un orafo. A maggio qui a Vicenza c'è stata la fiera dell'oro ed è stata veramente una mattanza. Io mi chiedo questo: cosa aspetta il governo e cosa aspettano le banche a dare aiuto alle piccole e medie imprese? Il governo ha dato dei soldi alle banche per andare avanti, però se io vado in banca per chiedere un prestito per andare avanti la mia attività, mi chiudono una porta in faccia. Perché l'Italia, perché il governo, perché le banche per uscire da questa crisi non ci danno fiducia? Cioè, da che mondo è mondo, da quando è nato questo paese? È la piccola e media impresa che manda avanti questo paese, non sono le grandi ditte. Il Trentino è veramente all'avanguardia perché fanno feste per l'artigianato, hanno un occhio di riguardo per le piccole e medie imprese che qua, soprattutto nel Veneto, non c'è. Allora io mi chiedo, perché questo? Cioè, io a distanza di ottobre, quando è iniziata questa crisi, che ho anche chiamato ancora Radio 24, non ho trovato nessuno che abbia detto: va bene, ci sono piccole e medie imprese, c'è a Vicenza un settore come l'oreficeria che sta veramente morendo, perché non ci danno una mano? Grazie Andrea, sentirei Zingales e poi Boeri. Zingales. Ma io capisco assolutamente la frustrazione del signor Andrea. È verissimo che la piccola impresa è fondamentale in Italia ed è vero che in un momento di tensione come questo molte di queste imprese hanno bisogno del credito. Ora, dalla parte delle banche devono selezionare le imprese che meritano più credito, però da quanto mi risulta non c'è stato un aumento del credito in questo periodo, in un momento in cui la piccola impresa ha molto bisogno, e questo purtroppo è un problema generalizzato, e la richiesta del signor Andrea è legittima. Dice: se a un certo punto le banche vengono sussidiate, perché non dobbiamo venire sussidiati noi? E questo è il problema: quando lo Stato interviene, dove ci si ferma? E beh, lo stesso governatore Draghi ha sottolineato il fatto che sono aumentati il numero di risposte negative delle banche verso le imprese che chiedono credito. Tito Boeri. Esatto, infatti questo era stato documentato da Draghi. Io credo che le piccole imprese si siano trovate di fronte ad una situazione situazione molto difficile, perché da una parte c'è stato un calo della domanda e dall'altro lato questa stretta creditizia e questa difficoltà ad accedere al credito, che chiaramente è una situazione che metterebbe in difficoltà chiunque. Qui è un problema storico del sistema bancario italiano, che ha dato prestiti soprattutto alle grandi imprese, tra l'altro a condizioni molto vantaggiose, che invece è stato molto, e non ha neanche oggi costruito la capacità di selezionare dei progetti, di analizzare dei progetti, dei piccoli progetti imprenditoriali. Quindi è fondamentale che anche il nostro, perché viene osannato talvolta il nostro sistema bancario perché è stato più, si dice, meno vulnerabile alla crisi, e invece in realtà io credo che questa è una delle occasioni invece in cui dobbiamo cambiare il nostro sistema bancario per renderlo anche più capace di selezionare dei piccoli progetti imprenditoriali. Di sistema bancario vuole probabilmente parlare Giuseppe da Milano, prego. Buongiorno direttore Allegri. Buongiorno. Ospiti. Una domanda molto breve. Se è vero che le banche, il sistema bancario italiano è sano, come dice Berlusconi, perché hanno dovuto fare un decreto per permettere di valutare le partecipazioni al costo e non al valore di mercato e quindi praticamente uscire con forti perdite? Perché non fanno pulizia nei loro sistemi? È il miglior sistema, il miglior modo per dare sicurezza al sistema bancario. E perché, se è vero, non danno gli aiuti alle aziende che lo meritano, che siano piccole, grandi o medie, non ha importanza, ma aziende che lo meritano. Grazie Giuseppe. Rapidamente Zingales. Il signor Giuseppe ha perfettamente ragione. Purtroppo questa pressione all'offuscamento dei bilanci bancari parte addirittura dagli Stati Uniti, non è solo una questione italiana. E il problema molto spesso è che quando c'è un problema si cerca di nascondere il sintomo invece di risolvere il problema. Quindi lei ha perfettamente ragione, ci vuole più trasparenza. Il problema degli aiuti, come sempre, è chi è in grado di determinare quali sono le imprese valide.